abbiamo 20 minuti per fare domande. L'ultima guarigione e non ben riuscita. Sì. Io, mettendolo a posto un leader, ho pensato che gli mancava l'argilla. Non c'è. Ho perso la materia prima. E mancava il fango. Non c'è un'altra guarigione agli occhi come il fango. Sì, allora, lì no. Ma un classico. Si è dimenticato l'argilla, no? Buttare, mettere le mani con l'argilla è un po' un classico, probabilmente erano la tipologia dei taumaturghi dell'epoca, qualcosa del genere, probabilmente facevano così. Probabilmente, bisogna anche riderci su. Ma a me viene in mente quello. E quando, mamma mia, c'è un pezzo, adesso non me lo ricordo più. C'è Erode che dice. Parla di Giovanni Battista, dice, ma quello non lo, perché, allora, gli vanno a parlare di Gesù Cristo, e dice, ma questo è un altro, perché il Battista l'ho ammazzato io, cioè, e più o meno siamo, anche lì è ironico, no? Cioè, allora dice, ma Battista l'ho ammazzato io, questo chi è? Cioè, anche lì la butta un po' giù, vedrai, uno l'ho ammazzato io, l'altro chi è? Ha confuso il destino. Eh sì, fa un po' di confusione. Io volevo, nel suo commento, sì. A un certo punto, quando c'è la morte di Gesù, c'era un'osservazione dove veniva, possiamo ritornare forse lì? Mi dica dove? Qua? Prima ancora. No, prima ancora. Accettando le cose. Dove viene in qualche modo un riferimento a Dio, nella morte di Gesù. Ah, che Dio è. Ecco, e nel suo disegno prevede per il Messia un cammino di sofferenza, di morte, eccetera. E perché io ho ricevuto nel periodo di Pasqua questa osservazione che vorrei leggere per sentire cosa lei ne pensa. Oh mamma, prendo paura. No, però così, perché poi l'ho mandato a dei miei amici e non tutti sono stati d'accordo nel dire che andava bene. C'è una bestemmia che ripetono devotamente: Gesù è morto per i nostri peccati. Con la sua croce ci ha redenti, con il suo sangue ha lavato le nostre colpe e simili. Gesù è morto per le sue scelte di vita e la crocifissione non c'entra nulla con Dio, ma è stata decretata dalle autorità. Qui è quello che ho ricevuto. La bestemmia terribile consiste nel fare di Dio un carnefice. Questo linguaggio blasfemo viene ripetuto a Iosa nella settimana di Pasqua. Mantra spietato e sanguigno. Questo tossico fossile dogmatico è difeso con le unghie dai paladini della ortodossia, i quali vogliono dei credenti dediti all'espiazione e ai sensi di colpa. Così si tradisce il messaggio di Gesù, che fidandosi di Dio è stato dalla parte dei poveri e contro gli oppressori, dandoci una testimonianza di amore e di coerenza che sollecita le nostre vite a seguirlo, collocandoci dalla parte degli ultimi. Firmato Franco Barbero. Allora lì tutta questa osservazione è lì espressa un po', come si può dire, è espresso in una maniera un po', non sto a termine giusto, sì, anche italiano, miseria, un pochino risentita. Posso prendere questo nome, non si offendono, non lo conosco questo signore. Ma neanche io. Lui esprime in una maniera, io non l'avrei espresso così, ma lì dentro c'è un problema grosso. Lì ci vorrebbe altro che fior di teologi, no? La sottoscritta e le ore, perché lì io non avrei usato quelle parole lì, ma lì lui tocca un problema grosso, non ha torto, è espresso, l'avrei usato altri tanti, un'altra sottolineatura, ecco, però lì c'è un problema grosso, sotto lì. Che servono fior di teologi, non la sottoscritta, se puoi chiamare uno da Roma, di quelli pesanti, per parlare di questo, io sono d'accordo. Noi chiediamo al Cosentino di interpretare. Questa qua è una cosa, e lui ci dirà, non so cosa ti risponderà, lascerà una risposta, perché qua c'è un problema grosso. No, perché appunto io, vedendo quella scritta lì, mi è venuto in mente, no? Cominciamo. Perché mi aveva lasciata un po' lì. Allora, cominciamo da un pezzo alla volta. Nel Vangelo di Marco c'è scritto nell'annuncio, vediamo se ce l'ho. Doveva soffrire molto. Questo qua in greco è dei, è il famoso dei. Ha scritto. Cioè, praticamente c'è scritto che nel piano di Dio c'è il fatto che Gesù doveva essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dei scribi, venire ucciso e risorgere. Cioè, la passione, morte e risurrezione di Gesù non è un caso, ma avviene per un preciso piano del Padre, primo pezzo della faccenda. Cioè, non è un caso che avviene. È vero, come è scritto, dice lui, che è avvenuta per una decisione delle autorità, ma quella cosa lì non è un caso, era prevista nel piano di Dio. Qua dovete pensare che ci sono delle comunità cristiane alle origini come noi che si chiedono che caspita è successo. Cioè, anche loro devono... Cioè, non è che capiscono tutto. La Chiesa non capisce tutto. Continuamente occorre capire qualcosa. Certo, con 2000 anni di esperienza dietro la Chiesa è un po' più facile rispetto a loro. Cioè, questo è indubbio, eh. Un conto è il povero Vangelo di Marco che è stato scritto nel 60 più o meno. E quindi quanti anni aveva dietro la schiena? 30, 25, che più o meno Gesù sarà morto nel 30, anche prima, e il Vangelo di Marco è più o meno 60, giù di lì, poco dopo, quindi aveva 30 anni di esperienza dietro, 35, forse 40, non di più, e in conto siamo noi che ne abbiamo 2000. Ci siamo, non so che gada. Però anche loro si sono chiesti, ma quello che è accaduto a Gesù è stato un caso? E loro ti dicono no. No, non è un caso. Te lo dicono qua. Doveva soffrire. Era nel piano di Dio. Ci siamo? Ok, primo pezzo. Secondo pezzo della faccenda. Gesù muore in croce. E muore in croce per salvare noi per i nostri peccati. Va benissimo. Ok, questo è indubbio. Attenzione però poi al pezzo successivo. E quello ce lo mettiamo noi, però. Gesù muore in croce per noi. C'è scritto da tutte le parti. Giusto se il greco non me lo dimentico. Muore in croce per noi. Cioè la morte di Gesù, la sua passione, morte e risurrezione, non è un caso. Lui ha scelto questo e lo sapeva. Meglio lo sapeva, lo matura. Cioè matura che lui avrebbe dovuto percorrere questo cammino. Che qua è un altro problema grosso, che è quello della coscienza di Gesù, non mi dentro lì perché no, non è un problema, cioè lui matura e capisce leggendo le scritture e il servo sofferente di Isaia che quello era il suo cammino e lui capisce che muore in croce, innocente, per gli uomini e quello è il massimo del gesto d'amore di Gesù e di Dio per gli uomini ed è il massimo della vicinanza. Gesù è vicino a noi attraverso la passione e la morte, ok? Come disse una volta a mio studente quando insegnavo religione, adesso non insegno più, pensa tu se Gesù avesse, fosse stato sulla croce e avesse detto: io lo soffro, modello film, tanti saluti a tutti, io scendo e me ne vado, modello film. Ti sarebbe piaciuto un Dio così? Gli ho detto al mio studente, non mi ha risposto, ma si capiva dalla faccia, vi sarebbe piaciuto un Dio così? Che nel momento della sofferenza dice, no no, io sono il figlio di Dio, sono capace, miracoletto e me ne vado. Ma non può essere il figlio dell'uomo che muore in croce. Allora, aspetta, no, l'ultima, no, un attimo, perché mettiamo fuori anche l'eresia, un attimo, l'eresia nel senso quella... No, no, in quel momento lì non può essere Dio, Dio non può morire. Aspetta un attimo, no, troppo, ne serve... La Roma devi chiamarne per po' di teologi, ma mia troppa roba, un attimo. Non faccio perché posso. Quindi è il massimo della vicinanza del figlio di Dio, perché infatti nel Vangelo di Marco in fondo, e ne rispondo così proprio per farla semplice, perché quella lì è un'eresia, non nel senso che lei è un eretico, è una delle comprensioni che hanno dato alla passione morte di Gesù, perché anche loro facevano fatica e hanno detto: quello è solo il figlio di Dio, è solo l'uomo, non è Dio, perché anche loro facevano fatica, e nasce quella eresia lì. Però è normale, no, no, così è nel senso, no, no, nel senso non positivo. È che io credo quello, però c'ho anche un principio che Dio non può morire. E invece sì, può morire, infatti c'è il famoso, dove il diavolo è andato? Ma Dio è di tre persone. Sì, le rispondo. Lo spirito non muore, ma quel corpo di quell'uomo è morto. E quello è anche contemporaneamente Dio e uomo. Ma quel modo di pensare che separano due cose non è niente, lo chiamo eresia, noi diamo al termine eresia un'accezione negativa, ma in realtà alle origini cristiane si domandavano anche loro le stesse domande che si fa lei, e dicevano no, sono separati, perché non riuscivano a capirlo. Ma le risponde lo stesso Vangelo di Marco in quella maniera lì, perché in 15:39 il centurione, che è romano, dice: visto lo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Cioè lui riconosce, e questo lo fa apposta il narratore per dirti che il centurione pagano, lo fa apposta, riconosce nella passione, nella morte di Gesù, l'uomo, il figlio di Dio. E quello è il vertice del Vangelo di Marco, e la professione del centurione sta alla professione di Pietro. E dire che muore il Cristo? No, sì, ma il Cristo non è che io non credo che creda a modo mio. Sì, sì, ma, no, no, no. Ma colgo l'occasione per il valore delle parole. È il Cristo che muore. Il Cristo che è figlio di Dio. No, dovete vedere insieme. Almeno per il Vangelo di Marco. Ma anche io sono figlio di Dio. Sì, siamo tutti figli di Dio. Sì, però noi lo siamo in una maniera leggermente diversa. Okay. Noi lo siamo in una maniera leggermente diversa. Torno dalla signora, perché sennò mi apre una parentesi che non torno più indietro. Torno da lei. Allora, Gesù muore in croce, la sua passione, morte è il massimo della vicinanza, dell'amore di Dio per noi. Ok? Dal di lì sono saltate fuori, favorite anche da una certa mentalità, delle interpretazioni che vedono, ci sembra che padre, se lo stai attento a come la spieghi questo fatto, sembra che il padre se ne disinteressi, perché c'è la famosa frase: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E sembra che il padre sia colui che manda il figlio per la sua strada, e lo lascia e lo molla, e quindi il padre sembra il carnefice. Quella storia lì, queste interpretazioni qua, hanno fatto la sua strada nella storia del cristianesimo, ci sono, ma non sono corrette. Cioè, attenzione, perché hanno fatto parecchia strada e non sono interpretazioni corrette. Cioè, una visione della morte di Gesù molto sacrificale, cioè come esistevano i sacrifici nel Tempio di Gerusalemme, allora al posto del sacrificio dell'animale hai il sacrificio a Dio, a quel Dio che sta lontanissimo là ed è disinteressato, non gliene importa niente, come dicevano a lui, del figlio. E il come me l'ha anche spiegata a me quando ero così, Gesù muore per, in croce per i nostri peccati, per accontentare il Padre e riportarci a Lui. Aspetta un attimo, non lo spiegarmela così. Cioè, dipende da come la si spiega questa storia, ok? Certo che Gesù sceglie di... sto termine, che ormai ci sono questi termini che non sono fantasia. Certo che Gesù si sceglie di sacrificarsi per noi, ma lo sceglie Lui. Ma non lo fa per... lo fa come sua scelta d'amore, per farci vedere fin dove il suo amore, suo, del Padre, arriva. Ci siamo? Non disdegna di morire per gli uomini. Infatti, si dice anche nei Vangeli, a stento si trova una persona che vuole morire per un suo amico, figurarsi, per dei peccatori. Ok? C'è scritto da qualche parte, non mi ricordo più dove. Però, chiaro che Gesù e il Padre scelgono questa via per far vedere fin dove l'amore di Dio per gli uomini, che non sono degli spiriti di santo, arriva. Ci siamo? Poi è stata venduta, passatemi il termine, è stata venduta come Gesù si sacrifica per rimettere in relazione Dio e gli uomini. Allora Dio Padre fa la figura del carnefice, la fa piena. Quella roba lì in giro... Felice colpa. Marito teologo che è come teologo ecumenico che dice: hai detto benissimo. No, non dirmi così, dimmi la. Quindi lui, allora lo dice, quel testo lì è, insomma, un pochino con il dente avvelenato, ma tocca qualcosa di vero, attenzione. Cioè, il problema è, secondo me, quella frase che io ho letto poi sì. mi hanno anche impiegato per pensare in questi giorni. L'avevi anche a ricevere. Sì, ricevuto. Ma secondo me è il punto debole di questa cosa, che peraltro cioè, funziona, certo Dio, Gesù è morto per le sue scelte, chiaro, che l'hanno portato lì per cui, ma che Dio non c'entra niente, no, Dio c'entra al massimo in questo cammino che lo porta inesorabilmente lì, e il momento in cui ci arriva per questa via e ci arriva per le scelte che per annunciare il regno fa, certo. Perché poi mi perdo anche per strada, però è accompagnato ed è, e non può andare diversamente, non può andare diversamente, non, quello che tu dici, ma io mi ricordo anni fa, dicevo, ma se Gesù fosse morto nel suo letto, sì. E avesse fatto e detto tutte le belle cose, sarebbe stato lo stesso. No, non sarebbe stato lo stesso. Se fosse venuto giù alla croce, lo intuisci che doveva finire così. Ci finisce perché appunto è andato a cacciarsi nei guai, quindi l'hanno... Però perché potesse Dio esprimere appunto il suo amore per noi, fino a che punto non poteva non morire come muoiono gli uomini che sono ammazzati da altri uomini, come muoiono, come soffrono le persone, cioè non poteva non prendere su di sé tutta questa parte negativa che gli uomini trovano nella strada, che se lo fanno in gran parte da soli, in parte gli capita, però non può lasciare fuori nessun pezzetto di sofferenza umana. Neanche la disperazione del Dio mio. Esattamente, non conosce fuori niente. Ecco, il problema qua, scusi, dico solo quello. Attenzione, che il problema è l'errore che è fatto. È come nel portare la croce a non andare a infilarci dentro cose che riguardano più gli uomini. Cioè, portare la croce diventa anche, a uno ha delle difficoltà, a portati sta croce. E così, magari senza aiutarlo, senza ascoltarlo, senza capirlo. Niente. Attenzione a fare queste operazioni. Oppure dire, ah, Gesù come è morto in croce, anche noi dobbiamo subire passivamente. Un attimo. Cioè, attenzione all'inquinamento, come dico io. Perché nell'annuncio cristiano... alle volte ci sono dei fattori inquinanti e bisogna distinguere i fattori inquinanti dall'annuncio vero. Ogni tanto attenzione all'inquinamento, perché è secolare. Io volevo solo più fare un'osservazione veloce, ma poi basta. Cioè, pensavo che secondo me un grandissimo aiuto a noi che viene da Gesù in croce e il fatto di aver conservato la fiducia nel Padre. Cioè quando dice affido il mio spirito, nel senso che anche noi nel momento della sofferenza, del dolore, possiamo rischiare di pensare di essere abbandonati dal Padre. Quello che gli capita anche ai discepoli, non ti importa niente. Ecco, e invece secondo me proprio il comportamento di Gesù in croce ci può anche aiutare moltissimo in questa cosa.